Rispetto alla questione della certificazione biologica, ci sono tentativi, esperienze in giro per l'Italia di piccoli gruppi, associazioni più o meno grandi che stanno ragionando sul percorso di autocertificazione, certificazione partecipata, quindi questa critica alla certificazione biologica ufficiale è diffusa, voglio dire, e non da ieri, cioè da diversi anni che c'è un tentativo di sorpassare questa cosa. Chiaramente, no, questo per dirti che non sei solo in questi dubbi, certo, sei solo in questo ragionamento, ma ci sono già diversi percorsi in avanzato stadio di dibattimento, ma si fatica a uscire pubblicamente con un discorso chiaro che stia bene a tutti, che venga riconosciuto poi a grandi strati. Tutto questo, due domande. Hai parlato del trifoglio che semini, voglio capire quando lo semini questo trifoglio e se lo raccoglio meno o se rimane solo sotto la coltivazione, e poi ti chiederei di spiegarci un po' meglio se e come state lavorando sul discorso della meccanizzazione in montagna, oltre alla mietilega che bene o male si conosce già come funziona eccetera, in particolare il discorso mietitrebbie che c'è anche lì vari posti in giro per l'Italia che stanno ragionando su una coltivazione cerealicola di montagna, ma lo scoglio è il discorso raccolta, meccanizzazione eccetera, e ci sono tentativi di importare, costruire mietitrebbie che possono essere piccole, trasportabili nei sentieri, nelle mulattiere, nei piccoli pezzi. A che punto siete voi rispetto a questo?